E la gente deve sapere che sono le imposte che mantengono appunto i nostri ospedali, che mantengono la nostra polizia, che mantengono le nostre scuole, e abbiamo solo da applicare le imposte che noi abbiamo già, non c'è bisogno di aumentarle. Ripeto, facciamo tutti i conti, mi basta riuscire a controllare un terzo delle evasioni che oggi un paese civile lo deve fare, e il nostro governo lo farà senza bisogno di leggi speciali, ma con l'amministrazione che funziona.